La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Lara Loremi guarda la distesa scintillante del mare dal ponte della nave. La luce violenta si moltiplica sulla superficie dell'acqua. Trapassa le lenti scure dei suoi occhiali, le invade i pensieri. È il 21 giugno, il primo giorno d'estate, il giorno più lungo dell'anno, il giorno in cui il sole raggiunge la sua massima altezza. L'unico giorno in cui non c'è tramonto sul circolo polare artico. Anche se tecnicamente queste sono acque italiane, la latitudine è africana e si sente. Ci saranno 40 gradi. I suoi vecchi occhiali da sole, il cappello di paglia, comprato in un piccolo negozio vicino al porto di Lampedusa, sono una protezione appena sufficiente. In vari punti della nave stazionano persone con berretti, bibite, panini, lettori MP3, sigarette. Quattro bambini scimmieggiano e si spintonano correndo avanti e indietro, richiamati da madri vocianti che però non fanno nessun serio tentativo di trattenerli. La puntata di oggi è dedicata ad Andrea De Carlo e quello che avete sentito è un estratto dal suo ultimo libro, Villa Metafora. Per parlare di questo romanzo che si chiama Villa Metafora, questo è il 17° romanzo che pubblico, e quello che io cerco di fare ogni volta quando comincio a scrivere una storia è... mi pongo alcuni punti fermi, diciamo. Il primo è di non riscrivere qualcosa che ho già scritto, che è una cosa che può succedere, perché ogni volta che chiunque, in qualunque campo, diciamo, dell'arte, della creazione, abbia successo con una forma, è tentato di ripetere, no? Di creare uno stampino e andare avanti così. A volte è anche imprigionato, no? Perché se ci pensiamo anche dal punto di vista di chi gode di queste opere dell'invenzione, c'è il desiderio di riconoscere, no? Cioè hai voglia di, questo vale in qualunque campo, dalla musica alla letteratura, hai voglia di riconoscere quella voce e dire è lui o è lei, però non hai voglia di risentire una cosa che ti ha già raccontato, no? Esattamente negli stessi termini. Hai voglia di essere sì in compagnia di qualcuno che conosci, ma di andare in un altro territorio. Dal punto di vista mio, cioè di chi la storia la inventa, ho voglia di essere sorpreso. Se non fosse così non mi divertirei, non avrei passione, non riuscirei a metterci l'anima, come invece voglio che sia. Quando ho cominciato a scrivere questa storia volevo innanzitutto non avere nessun personaggio che fosse un semplice specchio, no? Uno in cui riconoscermi e dire più o meno sono io... Volevo una frammentazione di punti di vista ed è così che è nata l'idea di averne molti di personaggi, di averli molto diversi fra di loro e di raccontare di capitolo in capitolo la storia dal loro punto di vista, cioè dal punto di vista di uno di loro a turno, non raccontando in prima persona, che poi avrebbe creato come una specie di scalino narrativo, no? Per cui ogni volta... leggendo devi capire con chi hai a che fare. Volevo raccontare con una voce in terza persona che passava da uno all'altro, ma entrando nel mondo di ognuno di questi qua. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Così Andrea De Carlo, lo scrittore che esordì con la benedizione di Italo Calvino, parla di Villa Metafora, il suo ultimo romanzo. La vita di De Carlo è segnata da due pilastri: il padre, il noto architetto genovese amico di Vittorini e di altri intellettuali milanesi, e l'amore contrastato per Milano, che sarà anche la città in cui verrà ambientato Due di Due, il più noto e amato romanzo di De Carlo. Così racconterà a Daria Bignardi. Credo che in ognuno di noi ci siano due parti che sono in conflitto, ma che anche hanno bisogno una dell'altra, no? E una è la parte più riflessiva, più prudente, più radicata. Poi c'è una parte invece che è quella dell'immaginazione, dell'invenzione, la parte più incandescente, quella che ci trascina nelle situazioni. E ogni persona credo che stia a fare un gioco di equilibrio fra queste due parti, di solito privilegiando quella di Mario, cioè quella più prudente. Ma anche la persona più prudente al mondo ha comunque una luce improvvisa di follia e magari in un solo momento, di una sola giornata, una volta ogni 10 anni gli capita di avere un attimo in cui si immagina diverso da quello che è in una situazione sconvolgente o a fare qualcosa che non avrebbe mai fatto. Quando poi succede che incontri qualcuno che ha delle caratteristiche simili alle tue, ma altre che sono completamente diverse, cioè che ti mancano, c'è la base per un incontro di quelli fatali che cambiano il corso della vita di qualcuno. E quello che succede a questi due protagonisti, Due di Due, è proprio quello. Cioè, sono simili ma sono anche profondamente diversi ed è quello che li attrae. Il talento puro allo stato, diciamo, incandescente, così come un fuoco d'artificio, non esiste. Il talento è un insieme di qualità naturali e di pratica artigianale. Cioè, qualunque lavoro tu faccia, che tu faccia musicista, faccia lo scrittore, c'è una quotidiana disciplina per riuscire a esprimerti con uno strumento, nel mio caso attraverso le parole. E non basta appunto la capacità istintiva, il dono che puoi avere di mettere in parole una sensazione. Poi se costruisci soprattutto un romanzo ci vuole giorno per giorno la capacità di farlo. E poi non è affatto detto che finito un romanzo tu ne scriva un altro o abbia necessariamente l'ispirazione per farlo. Per cui ogni volta il dubbio, io me lo pongo sempre. Ogni volta che ne finisco uno penso che potenzialmente sia l'ultimo. E poi magari nel tempo, finora almeno è successo così, finora mi sono venute altre idee. Ma non do affatto per scontato che continui a essere così. La vita di Andrea De Carlo sarà segnata da tante prime volte e da importanti incontri. Sarà il secondo assistente di Oliviero Toscani, lavorerà al fianco di Federico Fellini. La cosa che lo cambierà più profondamente sarà però il viaggio. Viaggiare sarà la vera linfa per un mestiere che De Carlo continua a definire quasi di artigianato. Il viaggio negli Stati Uniti sarà centrale nella formazione del giovane De Carlo, che vivrà insegnando italiano a Boston e New York. Lo scrittore e il romanziere è uno che se ne sta già molto più per conto suo, quindi ha una dimensione molto più privata anche rispetto a quello che scrive. E in fondo sta fuori dal mondo già facendo il suo lavoro. Ma ugualmente poi è una cosa che ti chiedi comunque, anche se fai romanzieri, ti chiedi poi, ma cosa sono? Perché lo faccio? È una cosa che ancora mi interessa o lo faccio perché c'è un pubblico che legge i miei libri? Io questo credo che ognuno per onestà dovrebbe porselo sempre. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Uomini, se io vi guardo, nasce lo spavento. Io senza voce morto, e invece voi nell'eterno vento. Andrea De Carlo è uno scrittore italiano famoso praticamente in tutto il mondo. La sua prima volta, forse, ha inizio quando decide di far stampare i suoi libri con carta riciclata, accogliendo una sorta di supplica di Greenpeace e trasformando lui, con questo gesto, il modo di pubblicare di molti altri autori italiani. Ma dunque, questa è una campagna lanciata da Greenpeace circa 6-7 anni fa, è una campagna internazionale, e parte dall'idea di sensibilizzare gli scrittori e poi i lettori naturalmente al fatto che i libri sono stampati su carta, ovviamente, che la carta proviene però dalla polpa di cellulosa ricavata dagli alberi e che purtroppo parte di questa cellulosa deriva da alberi delle foreste primarie del mondo, vale a dire di quelle foreste che ancora non sono state tagliate, poi fatte ricrescere o cambiate. E non parliamo solo della foresta dell'Amazzonia, ma le foreste primarie sono in varie zone del mondo, per esempio nella Finlandia ci sono le foreste dell'Australia, e quelle delle Filippine, insomma la Siberia, sono vari habitat importantissimi per l'equilibrio della terra, perché contengono moltissime specie vegetali, molte delle quali non sono nemmeno state identificate ancora oggi. poi moltissime specie animali e anche esseri umani, nel senso che sono popolazioni che vivono nelle foreste e delle foreste, attingendo alle foreste tutto quello che gli serve, vale a dire cibo, persino medicine, sostanze medicinali che sono di origine vegetale e che sono importantissime. Naturalmente potrebbero essere importantissime anche per chi non vive nelle foreste, ma ne potrebbe fare uso. Tutto questo viene distrutto a un ritmo spaventoso, nel senso che un dato che a me colpisce tantissimo e che è molto facile da visualizzare è che un'area di foresta delle dimensioni di un campo di calcio viene distrutta ogni 2 secondi, cioè il tempo di contare 1, 2 e questo spazio vitale e fondamentale è distrutto e scompare per sempre. Ecco, quindi diciamo questa è una questione che riguarda secondo me tutti, cioè chiunque viva sulla Terra oggi. C'è qualcuno che diciamo può essere legato a un motivo che può, su cui può intervenire, ed è per esempio chi usa la carta per il proprio lavoro. Gli scrittori la usano perché appunto i loro libri sono stampati su quello. Quindi da allora, da quando questa campagna è iniziata, io mi sono impegnato a pubblicare i miei libri su carta, all'inizio carta riciclata e poi su carta certificata FSC, che è una sigla che sta per Forest Stewardship Council, che è un ente indipendente che controlla che la provenienza della cellulosa con cui la carta viene fatta non sia dalle foreste primarie. È una sigla che certifica questo, cioè garantisce che il legno o la carta che si usa proviene da un uso forestale consapevole e compatibile con l'equilibrio della terra, diciamo. Tra l'altro FSC è la sigla che un consumatore attento dovrebbe ricercare in qualsiasi tipo di carta, anche nella carta che si usa a casa o anche quando si comprano dei prodotti in legno, cioè questa certificazione. Certo, fra l'altro si diffonde, se diciamo chi ci fa caso scopre che appunto anche nei grandi supermercati, per esempio, può trovare, non so, dai tovaglioli di carta, per dire, alla carta igienica, tutti gli usi, se noi ci pensiamo un attimo, ci sono tantissimi usi della carta che noi facciamo ogni giorno. E facendo attenzione è possibile trovarlo. Fra l'altro non è che questo poi costi di più o sia insostenibile o difficile da comporti delle fatiche, basta un po' di attenzione, secondo me, ed è possibile farlo. Lo stesso vale anche per gli oggetti in legno, naturalmente. Sono anche questi certificati, se ne possono trovare, basta fare un pochino più di attenzione, secondo me. Senta, lei a questo punto ci è sembrato molto preparato, molto attento, molto sensibile a questo tema. Lei è mai andato a fare una sorta di viaggio attraverso le foreste per vedere cosa c'è attorno al legno? A me è capitato di farlo in Perù e ti accorgi che c'è tutto un mondo anche di illegalità, c'è un mondo proprio, come diceva lei, che minaccia tutti, minaccia gli alberi, minaccia le persone. A lei è mai capitato di andare? Sì, mi è capitato di andare. A me le foreste sono un po' indubbiamente che piacciono moltissimo, proprio per la loro densità di vita, di varietà, proprio di importanza proprio vitale. Per cui mi è capitato di vederne varie, dalle foreste della foresta pluviale dell'Australia, alle foreste del centro del Sud America, e ho visto cosa succede intorno a questo. Poi basta anche in realtà parlare con chiunque abbia a che fare professionalmente col legno. Per esempio mi ricordo una volta una conversazione con un falegname a Roma, il quale faceva per esempio i parquet, i pavimenti in legno, e mi raccontava come intorno per esempio al PEC, che è uno dei legni più pregiati, difficile da trovare, sono dei traffici simili a quelli che ci sono intorno alla cocaina, nel senso che arrivano queste navi fantasma cariche di questo materiale preziosissimo ormai, che viene tagliato illegalmente, importato illegalmente. Ci sono dei traffici orribili, ci sono degli interi paesi che stanno venendo devastati completamente, per esempio nell'Africa si aprono delle strade proprio per fare arrivare i camion, le motoseghe, vengono costruiti degli impianti che hanno magari una vita temporanea, perché poi nel giro di pochi anni viene spazzato via tutto quello che c'è. E lo stesso per dire succede, non so, in Nuova Zelanda, cioè paesi civilizzati e paesi cosiddetti in via di sviluppo vengono ugualmente